Senta. Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le indagini sul petrolio in Basilicata ci sono più o meno quando le Olimpiadi, nel 2000, nel 2004 e nel 2008. Ci sono stati arrestati, è ora 2016, è saltato il 2012, ma non so perché. Ci sono state più di una indagine. Non si è mai arrivati a sentenza. Un paese civile è un paese che va a sentenza. Tutti i film che fanno oggi son di destra, si annoiano son di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Deve essere chiaro tra di noi, è che a un certo punto da qualche parte l'energia dobbiamo prenderla. A meno di non voler interrompere le luci, chiudere gli ascensori, smettere di andare in macchina. E da questo punto di vista io penso che sia meglio non sprecare l'energia che già c'è, non andare a prenderne altra, non sprecare quella che c'è, che è lì. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I collanso quasi sempre di sinistra, i reggicazze più che mai di destra. La pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Quello del 17 aprile. E si dice a tutti, quel quesito non serve a niente, è una barzelletta. Anzi, è dannoso, perché spreca energia, è vero Matteo? Spreca energia e fa licenziare le persone. Matteo, sono due bugie queste. È la sinistra. Tutto che non stai mostrando in questi passaggi delicati la statura di un leader, anche se a volte purtroppo coltivi l'arroganza dei capi. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ah, la direzione del PD, che spettacolo! È una di quelle cose per cui vale la pena neanche spendere il biglietto e guardare. No, io non l'ho vista, devo dire, no, come al solito facevo altro di più interessante. Però spaccati della direzione del PD con Renzi che, oh, 48 ore un po' così e poi è rientrato nel Berlusconi che c'è in lui, no? I magistrati. Cos'è la sinistra? Eccolo qua, alle 6:30 minuti, siamo in 24 mattino, siamo pronti anche oggi. C'è Peter Bescapè in regia, c'è Emanuele Brignoli lì che niente, deve fare questa settimana di passione. Come va la sveglia? A che ora ti svegli? 4:30? 4? Beh, sei di Bergamo. Pota, no, pota di Brescia, pota. Bergamaschi alle 4 stanno già scalpellando e stanno già tirando su pareti e abbattendo muri. Vabbè, siamo qui. Allora, c'è Renzi che dice che sono lenti questi magistrati, sono lenti, mai a sentenza vanno. Mentre lo diceva stavano pronunciando una sentenza di primo grado proprio lì per un'indagine, per la verità è iniziata 8 anni fa, effettivamente, 8 anni. Però, insomma, questo è. 349-238-6666. Ringrazio Michele da Sesto Fiorentino, mi dice che sono bellino con la barba straordinariamente insuperabile. Magari me lo dicesse Veronica Gentili sarebbe meglio di Michele da Sesto Fiorentino, però insomma. Ah, Veronica Gentili, buongiorno, come stai? Punto, ti è venuta in mente Veronica Gentili e guarda chi compare. Ma guarda che è un caso di quelli clamorosi, Veronica che Gentili del fatto. Che hai fatto alla barba? No, niente, c'è un messaggio in questo momento. Buongiorno, dottor Alessandro. Dottor Alessandro, penso che roba strana, no. Uno che mi chiama dottore e poi col nome. Bellino con la barba straordinariamente insuperabile. Buon lavoro. E uno dice alla fine Michele. Ma guarda che messaggio Michele. Carino. Vabbè, dai. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Lo vedi? Questo è un leitmotiv che non passa mai di moda. Va bene, sì. Allora, Pota è allora Bergamo o Brescia, Pota? Ah, entrambi. Quindi andava bene, più Brescia. Adesso c'è un dibattito perché qualcuno dice Pota è Bergamo, non Brescia. E poi dice, ma no, Pota non è bresciano, Pota è bergamasco. Pota. Secondo me è bergamasco. Vabbè, però. Tu proprio poi di Roma, non so. Chiediamolo al nostro ospite, uno che è stato molto lento in una lunga parte della sua vita, molto lento da magistrato, lentissimo. Antonio Di Pietro, come sta Antonio Di Pietro? Pota, sto bene. giustamente a Bergamo Antonio Di Pietro, ma è stato un po' a Bergamo, è vero, no? Io sono stato a Bergamo, io ancora adesso sto a Bergamo. Ah! E allora ci aiuti a capire, Pota è bergamasco o bresciano? Io l'ho sentito qua, però lo dicono pure nel bresciano. Io devo dire, la prima volta che sono arrivato c'era un autista di Rosa Imagna, sì, che mi è venuto a prendere e mi dice: Pota, è il dottor Di Pietro? E dico, sì, sono il dottor Di Pietro. Venga con me. Quindi la prima parola a Bergamo è stata Pota. La seconda, il giorno che sono andato in carcere a interrogare la prima persona, hanno messo una giovane avvocata che parlava più dialetto che italiana, però era alta, bella e intelligente, me la so sposata. Ah, se l'è sposata sua moglie, ma vabbè. Piano piano all'inizio non ci siamo capiti, ma non perché lei bene o male, il problema ero io, poi che manco io ci azzeccavo l'italiano. quindi tra tutte e due era un disastro. Però ho dovuto fare a gesti, capisci? È stato tutto più facile. Il che vuol dire, cari italiani, una grande lezione: ci si sposa perché non ci si capisce. E quindi, insomma, questo è la lezione di Antonio Di Pietro. No, comunque, Antonio Di Pietro, ha sentito, siete lenti. Siete, io dico siete perché lei è un magistrato. Siete lenti. Ma devo dire che il venditore ambulante di per sé è sempre molto più veloce a chiacchiere. Poi bisogna vedere alla fine della giornata cosa porta a casa. Così il venditore, adesso me la segno subito, venditore ambulante Di Pietro a Renzi, sono le 6:34 del mattino. Quindi spero che si sia alzato anche lui, perché deve andare a mettere il baracchino. Il baracchino, ecco, però lo dica, è così, siamo partiti così, siamo partiti soft. Che bello, quando lo fa qualcun altro io assisto e rido felice, grazie. Ecco. No, vabbè, insomma, però che dire, qua c'è la questione di Pietro, sempre la politica, in un retroscena, pare che Renzi abbia detto ai suoi, la solita formula, basta essere umiliati dalla magistratura, cioè la politica rialzi un po' la testa. Soprattutto, diciamo così, allarghi un po' le mani e rubi meno, perché non è colpa della magistratura se la politica... si trova pecoronata come si trova adesso pecoronata. La colpa è purtroppo che, senza fare di tutta erba un fascio, ci stanno buoni e cattivi da tutte le parti, sì, ma a me sembra che se ha fatto una cosa mani pulite, ha fatto una cosa, come dice Pier Camillo Davigo, ha ingegnerizzato la specie, perché alla fine noi nella giungla della corruzione abbiamo preso quelli che riuscivano a scappare di meno, quelli che erano più evidenti, erano più grossi, non si potevano muovere, cioè le prede più facili sono diventate più svelti, furbone, e soprattutto chi è andato al governo si è fatto pure un po' di legge apposta è sempre lì, un po' guardie e ladri. Guardie e ladri è il problema di fondo, non ho capito perché c'ha ragione la guardia, ma secondo lei Renzi è un po' come Berlusconi, cioè nel senso in questo attacco alla magistratura, perché pare anche che dica basta questa cosa, siccome c'è stato Berlusconi non possiamo dire delle cose che in realtà pensiamo, no? Non possiamo rialzare la testa. No, magari fosse solo come Berlusconi poi alla fine tutto se la prende Berlusconi, ma alla fine chi era? È uno dei tanti imprenditori della Prima Repubblica che al momento in cui è scoppiata Mani Pulite, mentre alcuni sono dati alla gamba e se ne sono scappati, mentre altri si sono andati a finire in galera, lui ha pensato di scegliere la terza via, se ne è andato in Parlamento e si è fatto le leggi per non farsi processare. Quindi, cioè, l'ha fatto per sé, l'ha fatto diciamo così, con un'idea precisa ma circoscritta. Invece questo Renzi ci crede pure. È vero, quando uno diventa un dio in terra, che vuoi che faccia? ci crede pure e fa quelle cose. Quando, hai visto quando fa quelle prediche? Quando fa quelle prediche, le prediche dire, non lo so, non so. Veronica, tu le segui le prediche? Io l'ho vista, a differenza tua che ti diverti il pomeriggio, io l'ho guardata tutta la direzione PD. Pensa quanto mi diverto io nella vita. Io sono assolutamente d'accordo, perlomeno in Berlusconi c'era il dolo, cioè c'era l'obiettivo di fare il bene di se stesso, perché c'era, era pieno di guai. Renzi invece ci crede proprio, questo è il problema. C'è l'aggravante di chi non si rende conto di quel che sta dicendo. Addirittura, beh, insomma, qua dobbiamo subito far sentire un Renzi per riequilibrare, perché i miei due ospiti sono anti-renziani. Anti-renziani. Renzi. No, vabbè, insomma, però ce l'ha soprattutto con chi attacca il giglio magico, no? Questa cosa del giglio magico lo fa imbestialire. Senti qua, Renzi. Ricostruzione banale, semplicistica e superficiale del giglio magico che decide in autonomia sulla base delle simpatie o delle antipatie può andare bene per qualche tweet da strapazzo delle nostre opposizioni. Tweet da strapazzo. Sì, infatti anche questo è un pensiero bislacco, quello del giglio magico. Chissà perché, chissà perché siamo convinti che mette tutti uomini legati al suo giro, al giro fiorentino, nelle posizioni strategiche. La faccenda di Carrai l'abbiamo fatta noi, infatti. Tutte le ipotesi di mettere in punti nevralgici persone che sono cresciute con lui o erano i suoi compagnucci di scuola, le abbiamo tutte fatte noi. Sì, però qua c'è da capire una cosa, cioè il rapporto tra il potere e la politica, perché questo ha detto che ieri i magistrati hanno sentito il ministro Mariella Boschi, questa è la notizia del giorno, un'ora più o meno di audizione. Cos'è? Di Pietro, cos'è tecnicamente un'audizione? Dice non è indagata, è un'audizione. Hanno è stata sentita come persona informata sui fatti e quindi per sapere se è ma lei la prima cosa che avrà detto è non sono informata sui fatti. Questo non lo sappiamo. Voglio dire, è noto all'ufficio e tutti cominciano così la prima battuta. Così, uno appena si siede, prendete nota se dovete essere auditi da un magistrato. Prima cosa da fare, pota, sei bergamasco. Esatto. Seconda, non sono informato sui fatti. Che è la traduzione del io non c'ero, se c'ero dormivo, è un no? È successo a mia insaputa. No, però Di Pietro ha fatto anche il ministro, dai. Si parla tanto scopriamo nel 2016 che ci sono dei portatori di interessi che cercano di raggiungere dei politici per far passare delle norme, cioè non sto parlando di cose illegali, far passare delle norme per fare interessi, cioè non è così malvagia come cosa? Una cosa è, voglio dire, è un'attività di lobbismo. Ci sta, perché poi ognuno deve portare avanti il suo interesse. Una cosa è però quello che fa il portatore delle lobby, altra cosa è fare un provvedimento per qualcuno e non nell'interesse generale, soprattutto farci girare mazzette intorno. È chiaro, farmi le mazzette, sì, in questo caso, però non credo, cioè adesso non lo so, sto parlando di quelle, come si dice, ha chiesto la misura cautelare la procura di Potenza nei confronti dell'interfaccia del faccendiere, quindi evidentemente non è andato, ministro. Dalle intercettazioni mazzette non se ne vedono, semmai è a dire, siccome ha delle aziende che lavoravano nel campo, può darsi che abbia fatto delle pressioni per lavorare, ecco. No, non dice solo così, il fatto dice io rimetto un emendamento, chiedo che sia rimesso un emendamento, dopodiché lui per quella sua opera di intermediazione riceveva a sua volta del denaro, altra utilità, dall'azienda che era stata incaricata di fare questa operazione di lobbying. Quindi voglio dire, però lasciamo come diceva Renzi, parliamo alla renziana maniera. Lui dice lasciamo lavorare i magistrati, ecco, allora lasciamo lavorare, non sputtaniamo i primi che cominciano. Non sputtaniamo. Tu pensa a fare il tuo e lascia lavorare loro. Capito, ma li lascia lavorare, lavorano 8 anni poi per arrivare a una sentenza di primo grado. Veramente, questo dovrebbe guardarsi prima allo specchio, lui e tutti quelli che l'hanno preceduto. Perché per l'amor di Dio, anche tra i magistrati c'è qualcuno che non fa il suo mestiere, anche tra voi cronisti c'è qualcuno che si addormenta e non arriva alle 6:30 la mattina, per l'amor di Dio. Noi precisi, quale 6:30, sempre puntuale. Cosa voglio dire? Voglio dire che benedetto il Signore, ma se tu al magistrato non dai gli strumenti normativi, logistici e di personale, quant'altro, cosa vuoi che faccia poi questo? Come vuoi che faccia? Oggi come oggi, la magistratura italiana è al primo posto nell'Unione Europea in termini di processi e sentenze fatte. Niente, Veronica, è un muro di gomma, non riesco a scalfirlo da nessuna parte. Ma non è colpa mia, ma c'ha ragione. Tu mi dici c'ha ragione, ma aiutami, aiutami. Posso mai dare ragione a te rispetto a una teoria così sensata? Ah, no, ecco. Non lo posso fare, è la realtà. Per cui sono gli interessi personali contrapposti al buonsenso e in questo caso alla magistratura. La magistratura non può, perché ormai è evidente dal modo di porsi che Renzi ha, agire autonomamente, nel senso poi lo faccia, però io non sono contento, è perennemente il sottotesto, quindi c'è anche una modalità sempre di intromettersi in quello che è il lavoro della magistratura, ricordando che tutto sommato è una cosa non gradita, come l'interrogatorio della Boschi di ieri. Questo non è un modo di lavorare, non è un modo di mantenere la separazione dei poteri. A mio avviso non lo è, quindi Di Pietro ha ragione. Cioè. Allora, io non ho aperto il Parlamento, lo faccio con un gravissimo ritardo. Vabbè, mi dico, non hai aperto il Parlamento. Eccolo adesso qua, col ministro Boschi. Prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo. Che va a prendere un caffè, il ministro Boschi. Allora, no, siccome Di Pietro però Le ingerenze si declinano in mille modi, non necessariamente dicendo perché le toghe sono tutte corrotte, sono tutte di sinistra. Ma nel momento in cui io metto bocca nel lavoro che la magistratura fa, avendo un tono sospettoso in qualche modo, non pur ti piace. Utilizzando la frase. Vabbè, ma adesso approfondiamo, tienitelo lì questo concetto, perché Di Pietro tra un minuto ci deve lasciare. Di Pietro ci deve lasciare qualche minuto in anticipo. Allora, a munger le mucche. Ah, Ubi Maior. Scusi, se deve mungere le mucche, anzi, stiamo adesso togliendo da davvero. Però c'è qualcuno che va a lavorare, non come te, finalmente. Favore, però mandalo. Voglio sapere in conclusione da Di Pietro una cosa su Panama. Non ha soldi a Panama, Di Pietro, no? Ma avete idea? Non avete idea quando ha fatto Mani Pulite, quante ce n'erano che avevano i soldi a Panama? Panama. Quante volte è bella Panama. Sentito dire dal governo di allora. Noi elimineremo di mezzo tutto questo, però su Panama fammi dire una cosa seria, anche se di mattina presto. Panama non ha nessuna colpa, e qui c'è una ipocrisia generale degli stati moderni e cosiddetti democratici. Cioè, cosa succede? Che dentro di noi, nei nostri stati, reclamiamo trasparenza, legalità. E poi a Panama. Poi mi spieghi per quale ragione la comunità internazionale ammette relazioni con questi piccoli queste piccole entità, stati diciamo così nascosti in mezzo al mondo, dove andare a lavare i panni sporchi che non puoi lavare a casa. Che dobbiamo fare? Una dichiarazione di guerra a Panama? Faccio un esempio. In Inghilterra, in Russia, in Italia, in Germania, eccetera, eccetera, tutto deve essere pulito. Dopodiché c'era pure San Marino una volta. Baduzzi. C'era pure Città del Vaticano una volta. Panama, le isole Cayman, eccetera, eccetera. Cioè, tutte queste realtà per andare a fare lì le cose sporche che non puoi fare a casa. Ma che non è che... Perché la comunità internazionale facesse una sola norma. Embargo economico, commerciale e finanziario con le cosiddette società offshore. Tutti i giorni lo si dice, ma non lo può fare perché, come avete visto, i grandi del mondo stamattina stanno in ufficio, il pomeriggio devono fare i conti con Panama. Eccolo là. Vabbè, Antonio Di Pietro, la lasciamo a mungere le mucche e noi dobbiamo andare al traffico. Ci sarebbe una cosa. Il mio vicino di casa, c'ho il mio vicino di campagna, sì, che c'è tutti i giorni a crescere i vitelli. Sono meglio i vitelli che i bambini. Vabbè, ma questo è il vero risvolto della vita di Antonio Di Pietro. Lo spirito agreste. Esatto, che emerge sempre. Vado al traffico, grazie Di Pietro. Rientro con Veronica Gentili. Guarda che ti devo far sentire un personaggino, uno che ti è simpatico. Insomma, a me è molto, anche a te, secondo me. Milan, o traffico, what cosa, tentacola. Ciao Milan, ma perché non cambi squadra e diventi da Roma? A proposito di ministri dimissionari e non dimissionari, Renzi, fai attenzione che se guidi nei boschi prima o poi incontri i lupi e finirete per dimettervi tutti. Mauro Milan e Alessandro Meazza, neanche mischiandole dalle vostre due squadre ne viene fuori una buona. Buongiorno Milan, ciao Milan, come stai? Sai cosa ha fatto il Milan? Pota, pota, pota, pota. Pinia! Milan, con sta palla dei diritti acquisiti che non si possono toccare, ci hanno fracassato i maroni! Basta! Basta! Un po' di equità, per favore, se no ci sarà un conflitto fra generazioni che scoppierà presto! Basta! Panama Papers, Panama Papers, Panama Papers, tronca, tronca, tronca, tronca! Tronca, tronca, dai Veronica, anche te che sei di Roma, dai, di la verità che ti piace tronca, tronca, no, tronca. No, no, adesso non no. esageriamo. Così. No, niente, neanche, ma anche tronca. Ma, no, no, no, va bene, sta lì, fa il suo, cioè, ma che sta tranquillo. Lì, fa il suo? Ma magari ci fosse uno come tronca per 40 anni che si stai buonino, per favore. Ma cosa c'hai contro tronca? Stai buonino, perché è un signore che garbatamente sta lì, sta facendo quello che deve fare. Io non amo la politica fatta dai tecnici, dai commissari. La politica la fanno i politici. La politica la fanno i politici, bene. Così, fatto, c'è fatto. Questa usanza. Come la radio la fanno gli speaker radiofonici, no? Il risultato si è visto, certo. Sì, sì, sì, sì, sì. Vabbè, il risultato si è visto, adesso vediamo che succederà a Roma, io sono molto fiducioso. Ma tra l'altro hai sentito anche questa delle pensioni, ma guardate, ve la presento qua una che sicuramente è contraria a Boeri, che vuole il taglio, o meglio il contributo delle pensioni più alte, Veronica Gentili, sicuro, sicuro, vedrai, i diritti acquisiti, è una di quelle che dice che i diritti sono acquisiti, vero? Guarda, io non mi schiero mai contro Boeri per principio, quindi già ti questo... piace, Boeri è un bel uomo. Penso che ci siano alcune delle poche persone che hanno cercato di mantenere un po' di autonomia e fare un lavoro a prescindere dai diktat del caso. Ah, giusto, per perché è contro Renzi, giusto. E non prendo posizione. Beh, ha cercato di continuare a proporre delle riforme delle pensioni che avessero un minimo di logica e di buonsenso, accollandosi anche il fatto che lui in realtà vuole penalizzare le nuove generazioni e così via, perché ormai ogni volta che uno fa un ragionamento, la semplificazione di qualsiasi ragionamento complesso è tu vuoi fare contro qualcun altro. Quindi, sì, tu contro Renzi, per esempio. Quella è un'altra cosa però, perché quella è ad personam, io non me la prendo con una categoria, capito? Cara certo. Veronica, intanto ci hai mandato il selfie, non l'abbiamo chiesta di Pietro, tanto ci mandava il selfie. Ho mandato il selfie lì alla popolazione bergamasche, creando un certo sussulto della nostra organizzazione. Però... A chi l'hai mandato? L'hai mandato Emanuele, l'hai mandato a Peter, sì. L'hai mandato Emanuele. No, mandato Emanuele. Emanuele questa settimana sostituisce Lorenzo Nespoli, l'hai visto il selfie di Veronica Gentili? Che voto dai da 0 a 10? No, non l'hai visto. Ma no, no, no. Infatti no. Lo vedo un po' così che si aggira tranquillo. No, è tranquillo, no. Quindi non ha visto niente. Vabbè, ma è arrivato sicuramente il selfie di Veronica Gentile, adesso lo mettiamo sicuramente su. È arrivato, però è arrivato anche il momento di far sentire lui. Vai, il momento della gioia. Lui, colui che ha catalizzato, altro che Renzi, altro che Cooperlo, altro che Emiliano, altro che Speranza, altro che Pittella, altro che Bersani. Lui chi è, Veronica Gentili? Colui che ha reso memorabile un pezzo di storia questa direzione PD. Lui. È il nostro personaggetto, Vincenzo De Luca. Vincenzo, no, era solo una citazione Luca. Per... Vabbè, ma sentite qui che spettacolo, De Luca. Ho sentito a proposito di Roma qualche commento che mi ha francamente sconvolto. Qualcuno si è meravigliato del calo dei partecipanti al voto a Roma, 40.000 votanti a Roma. Io mi sono meravigliato dei presenti, 40.000 cirenei che sono andati a votare. Avevamo candidato Giachetti e Morassut, mica Brad Pitt e Raul Bova. Mica Brad Pitt e Raul Bova, Giachetti e mi Morassut. Mi sono sentita male da ridere mentre lo vedevo, non sono nemmeno riuscita ad arrabbiarmi. Senti ancora De Luca, sentilo. Dopo mesi di cura orfini, abbiamo somministrato per mesi sedativi ai romani, erano narcotizzati da Ostia a Valmontone. E che pensavate? Che... Ma un grandissimo! No. Abbiamo... Pensi c'era gli orfini davanti, ovviamente, no? No, sì, no, ma poi il Cabarelli prende la mano su tutto il resto. Ma che Cabarelli, un grandissimo, senti, la maggioranza e la minoranza, ancora questo ti faccio sentire, senti. Ma nessuno immagini che essere minoranza possa significare godere di una rendita di posizione. A volte c'è gente che si colloca a fare la minoranza perché c'è una quota che deve essere riservata per... Io sono contro Io credo che ci debbano essere valutazioni di merito, che si debbano rispettare gli equilibri e i pluralismi interni, ma se uno è un idiota, che sia minoranza o maggioranza. Eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì. È così, è lapidario proprio. Mette queste verità, devo dire, veramente, è superiore a Crozza, non c'è che dire. È superiore a Crozza. È l'unico, detto questo, mi ha fatto sbellicare, ma la premessa come è partito, la ridicolaggine non si commenta nemmeno, perché lui era uno dei governatori delle regioni che in qualche modo hanno sollecitato il referendum anti-trivelle, che si è fatto portatore di questa istanza. Poi il capo ha detto no, qui abbiamo scherzato, qui niente trivelle, qui non si fa più il referendum, ci si astiene tutti. E lui ieri ha fatto un discorso, non è che si arrampicava sugli specchi, dici? Proprio si sentivano, dici? Mamma mia, sai Veronica, mi sento tutelato, adesso sai Veronica cosa sono queste? Babbarie, queste sono babbarie, diciamo, sono la prima con una B, la seconda con due B, una prima con una B, la seconda con due babbarie. Capito? Babbarie. Quindi ha detto lo dico anche al mio amico Michele, parlando di Emiliano, che è uno dei, invece, di quelli che ha brillato ieri in direzione. Cioè, Michele, possiamo stare tranquilli, cioè, Matteo ci ha garantito che rispetto alle istanze che noi portavamo, babbarie, ci siamo capiti male. Babbarie, è stato babbarie. Pittella ci ha spiegato bene che non è da preoccuparci per queste trivellazioni. Però senti un po', dai, babbarie, ti voglio lasciare e ti ringraziamo per il selfie che adesso spariamo, ovviamente l'abbiamo messo. Eccolo là, il sorriso che è arrivato in regia con Silvio Berlusconi. Anzi, ti lascio anche con il messaggio di un ascoltatore che ci dice: ma svegliarsi con la Gentini è ritornare nel sogno. Oh mamma mia, ragazzi, gente proprio innamorata, persa, non c'è niente da fare. Silvio Secondo Berlusconi, che fa nel paragone con te, ecco, che ha inaugurato una pista ciclabile ad Arcore. Silvio Berlusconi, cosa ridi? Ti saluto con lui. Ciao. Cinque ville, perché la Brianza era il posto di villeggiatura dei milanesi. Quale di delitto? Non mi ricordavo di averne cinque. Il segnale orario vi è offerto da Scegli Pantera col TH, scegli l'IRT di Infracom Italia per competere nel mondo. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Siamo qui, cari ascoltatori, sono le 7:18 minuti, allora siamo pronti a leggere i giornali e poi tratteremo vari temi, torneremo sull'attualità politica, la questione del petrolio, parleremo ancora di pensioni, avremo il responsabile economico del PD, Filippo Taddei, ospite alle 8:40, insieme a Oscar Giannino, per parlare, insomma, di questa ipotesi che c'è, non c'è, appare, scompare, verrà fatta, non verrà fatta, del prelievo dalle pensioni più alte e la proposta Boeri, chissà, non verrà fatta, non verrà fatta. Boeri, ma non verrà fatta. Boeri, ma no. Boeri, ma vabbè, insomma, dai, andiamo a leggere i giornali. Allora, sono le 7:19 minuti, eccoci qui in questo martedì 5 aprile. I titoli: Il Sole 24 Ore apre sul fondo monetario, rischi da Cina e Brasile. Questo per il fondo, il peso dei paesi emergenti che aumenta le possibilità di contagio sui mercati finanziari. La questione poi dell'inchiesta di Potenza, la direzione del PD, questi sono gli ingredienti dei titoli dei maggiori quotidiani. Corriere della Sera, Renzi accusa i PM di Potenza, mentre Repubblica, scandalo petrolio, Renzi sfida i giudici, Boschi e i PM, non ho subito pressioni. Il Fatto Quotidiano, Renzi dichiara guerra ai PM che osano disturbare la Boschi. Per Libero, Renzi cade nel pozzo. Stampa, petrolio, tutti no della Boschi e IPM. Avvenire, Renzi sfida i giudici, PD diviso sulle trivelle. Il Messaggero, IPM dalla Boschi, Renzi li striglia.